Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 20 dicembre e questa è Italia in controluce, come sempre a quest'ora in studio Daniele Biacchisi. E il manifesto di Bersani, la prima legge sarà il conflitto di interessi. Nel caso di vittoria, il candidato del centro-sinistra forte del successo delle primarie e anche dei sondaggi, il Partito Democratico viene dato intorno al 37-38%, delinea su una le pagine di Repubblica di oggi, all'interno di un'intervista, il suo programma per la guida del Paese. E cosa dice? Per prima cosa una legge sul conflitto di interessi, antitrust e incompatibilità. È una legge, come sapete, più volte promessa dal centro-sinistra, ma mai realizzata. Secondo voi è una legge necessaria? Secondo voi è un provvedimento contro Berlusconi? Secondo voi è una legge che avrebbe dovuto fare anche un governo tecnico come quello di Monti? E perché non l'ha fatto? 349-238-6666 i vostri sms. Cominciamo da qui. Sentiamo la ricostruzione di Valeria De Rosa. Conflitto di interessi, ovvero affidare una responsabilità di un certo livello a qualcuno che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità. Un tema molto caro alla sinistra, che lo ha sempre inserito nel decalogo della campagna elettorale, ma poi, una volta al governo, nel 96 e nel 2006, non l'ha mai risolto. Forse, secondo molti, mai nemmeno seriamente affrontato. A sinistra, molto più che a destra, la colpa di questo pasticcio o errore, come lo stesso centro-sinistra riconosce, è stata addossata spesso e volentieri a Massimo D'Alema e al progetto della bicamerale. A conti fatti, fallì la bicamerale e anche la legge sul conflitto. Una discussione che ha logorato e lacerato il partito. Circa un anno fa, D'Alema l'ha spiegata così. Una delle tesi di fondo che vengono sostenute in questo dibattito leggendario sulla legge sul conflitto di interessi è che la legge sul conflitto di interessi non è stata fatta a causa del fatto che c'era la bicamerale. Ora, io dirò una cosa che è una rivelazione. Cioè, mentre c'era la bicamerale, che si occupava d'altro, nel mese di marzo del 1998 la Camera approvò la legge sul conflitto di interessi. La tesi secondo cui la bicamerale impedì l'approvazione della legge è un falso. Pur essendo una questione che nasce nella notte dei tempi, in Italia la bolla è scoppiata con la discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 94. Nel 96 fu il senatore Stefano Passigli a presentare un DDL in materia che prevedeva l'affido in gestione a una società indipendente. Il DDL non passò. Da lì in poi nulla è stato risolutivo. Sotto il governo Berlusconi, nel luglio del 2004, è stata varata la legge Frattini. Criticata da ogni dove, anche in ambito europeo, la legge prescrive che l'imprenditore provveda a nominare uno o più institori, cioè una o più persone di fiducia, tra cui figli, parenti, amici, cui affidare l'effettiva gestione aziendale. A Pierluigi Bersani ha risposto quest'oggi Silvio Berlusconi. Ricordo dunque le domande. Una legge necessaria, secondo voi, la legge sul conflitto di interessi? Un provvedimento contro Berlusconi? E perché il governo tecnico non è riuscito a fare questa legge? Perché era una legge, diciamo, che forse un governo tecnico avrebbe potuto realizzare con una maggiore obiettività. Cominciamo questo racconto dopo la ricostruzione da Silvio Berlusconi. Le uscite di Bersani dimostrano che è davvero un disco rotto, perché sono 20 anni che parlano di conflitto di interessi e vorrebbero con questo dire che le televisioni del mio gruppo sono intervenute nella dialettica politica. Io ho ricordato anche l'altra sera in televisione che non c'è una sola trasmissione in 25 anni delle mie televisioni che sia andata dichiaratamente contro la sinistra, mentre invece anche la televisione pubblica fa delle trasmissioni che sono segnate da una posizione politica precisa, che è sempre a sinistra, e c'è una rete, la 7, che dalla mattina presto alla notte tardi non fa altro che fare trasmissioni di approfondimento politico che sono contro di noi. Quindi il fatto che io sia andato una volta di pomeriggio alla domenica, un'altra volta ho fatto degli interventi molto molto limitati nel tempo su altre due trasmissioni di Mediaset, poi si è andato una volta soltanto a Porta, da cui mancavo da più di 3 anni, dimostra che la sinistra ancora è sempre sulla via della falsità e che usa sempre delle falsità per fare disinformazione e cercare di attaccarci. Ma credo che le persone che sono per bene non cadano nel tranello di queste dichiarazioni. Allora, dunque, il conflitto di interesse obbligatorio, Berlusconi non c'entra nulla, dice Armando da Pavia. Pensate a banche e aziende di Stato, era proprio questo che ci si aspettava dai tecnici. C'è chi ce l'ha con Bersani e D'Alema, chi dice che è assolutamente necessaria, chi, come un altro ascoltatore o ascoltatrice, dice che probabilmente questa al momento è l'ultima delle cose che si deve pensare, l'ultimo dei problemi. Un altro ascoltatore, Andrea da Macerata, dice che a questo punto serve qualcosa pro cittadini, ma è una legge da fare, tanto poi dice se la girano come gli pare, come i finanziamenti per i partiti. Un altro ascoltatore dice: non ci dimentichiamo che Monti doveva ricorrere all'approvazione di quel Parlamento. E un altro ascoltatore dice che pessima premessa, il paese allo stremo e Bersani mette al primo posto la legge per far dispetto a Berlusconi. Chi dice: parliamo anche del dimezzamento dei parlamentari e della relativa spesa. Dunque sono moltissimi gli sms che continuano ad arrivare al 349-238-6666. Il tema oggi è il conflitto di interessi. Si deve fare, non si deve fare una legge necessaria, come dice Bersani. La prima legge, se vinciamo, dice Bersani, sarà il conflitto di interessi. E perché, aggiungiamo noi, non è stata fatta dalla centrosinistra, che ha governato comunque sia nel 1996 che nel 2006 e anche avrebbe dovuto fare il governo tecnico. E perché non lo ha fatto? La nostra Valeria De Rosa ha intervistato un europarlamentare del PD, Deborah Serracchiani. Quando ne abbiamo avuto l'occasione ce la siamo lasciati sfuggire, quindi mi pare che sia una presa di posizione non solo importante, ma che sia anche un segnale di volere veramente cambiare le cose. Insomma, tra l'altro, una legge sul conflitto di interessi qualificherebbe anche il nostro paese in ambito europeo. Penso ad esempio al fatto che Spagna, Germania, Francia hanno addirittura dentro la Costituzione, in alcuni casi, la previsione delle incompatibilità proprio come valore principale del conflitto dell'abbattimento, diciamo così, del conflitto di interessi. Lei ritiene che questo cambiamento interno al partito sia dovuto anche a una diversa visione del fenomeno Berlusconi a questo punto della vita politica? Beh, diciamo che vogliamo metterci una pietra sopra e definitiva, e quindi, siccome avevamo ancora un sospeso importante che era proprio il conflitto di interessi, decidere di farlo per primo è il segnale ancora una volta e definitivo che vogliamo lasciarcelo alle spalle. E quanto peso ha avuto la nuova generazione in questa diversa, diciamo così, visione della materia del conflitto di interessi all'interno del partito? Un peso determinante, perché non abbiamo accettato condizionamenti, non abbiamo accettato compromessi, anzi abbiamo sempre detto in tanti dentro il Partito Democratico, appunto la nuova generazione, che era un tema sul quale ci saremmo confrontati per il futuro, insomma, cioè un tema sul quale avremmo cambiato il volto del paese, per cui credo francamente che sia il segno migliore della politica che cambia, allargando anche a generazioni nuove che fanno battaglie di questo tipo, giustamente. Quindi lei ci scommette sul fatto che sarà il primo provvedimento? Beh, più che scommetterci, auspico che lo si faccia, anche perché ormai non abbiamo scuse e non abbiamo più possibilità neppure di raccontare cose che poi non facciamo. Bersani lo sa bene la classe dirigente del PD, si sta prendendo una grande responsabilità, dovrà andare fino in fondo. Insomma, abbiamo già commesso errori in passato, non siamo assolutamente pronti a farne altri. Allora veniamo ai vostri sms che sono tanti. La nostra domanda è stata se una legge, quella del conflitto di interessi, quella tirata fuori oggi da Bersani sulle pagine di Repubblica, è un provvedimento necessario, se è un provvedimento contro Berlusconi. Come sempre, quando vengono fuori questi temi, gli italiani si dividono. E allora abbiamo parlato dei tecnici, per esempio Alberto Zanini dice che la legge sul conflitto va fatta e i tecnici non l'hanno fatta perché gli serviva l'appoggio del PDL in Parlamento per fare tutto il resto. Secondo un altro ascoltatore è una legge inutile nel delirante quadro italiano, è solo conto Silvio, niente Mediaset, niente pluralità. Un altro ascoltatore dice che un Parlamento di corrotti non ostacola il corruttore. Luigi parla di un governo tecnico senza il PDL che non ha la maggioranza. Come faceva il governo tecnico a fare leggi sul conflitto di interessi? C'è chi mi accusa di essere un demagogo, va bene, Aldo da Padova, lo ringrazio. Si tratta sicuramente di un atto intimidatorio mafioso contro Berlusconi, dice un altro ascoltatore. Assolutamente necessaria la legge sul conflitto di interessi e non solo per Berlusconi. Se fosse stata fatta quando era il momento, forse avremmo salvato qualche soldo pubblico, scrive Daniela. Poi un altro dice: fatta la legge, trovato l'inganno, l'etica dovrebbe governare gli uomini. Le leggi non servono, gli ultimi 2000 anni di diritto romano non bastano, si domanda il nostro ascoltatore, a farcelo capire, e così via. L'unica legge, secondo Fabio da Roma, che serve è quella di privatizzare la RAI, mantenendo solo un canale finanziato col canone per aprire la concorrenza. Ci sentiamo e ci ritroviamo qui sulle frequenze di Radio 24 domani, 21 dicembre, Italia in Controluce, 13.30.